Cara Vera, a te la parola. Bello, bello il tuo Cianetti sermone, mi trovo molto d'accordo. Allora, io invece cambio scenario. Allora, la mia frase è questa: ogni volta che qualcuno comincia a usare la parola definitivo in politica, atrocità di ogni genere sono proprio dietro l'angolo. Ed è una citazione da un romanzo di fantascienza della serie The Expanse, The Expanse, scritto da James Corey, scritto C-O-R-E-Y. In realtà è un nome d'arte perché dietro ci sono due scrittori diversi che hanno assunto questo nome, e il romanzo si chiama Persepolis Rising, la rinascita in italiano, 2017 la versione inglese e 2018 la traduzione italiana di Maria Felicia Maione, peraltro. Volevo leggere un pezzo un po' più grande per capire come mai avessi citato questo. Allora, c'è in corso un dialogo fra un prigioniero, che poi è il protagonista della vicenda, e chi lo sta tenendo prigioniero, che è una sorta di dittatore, no? E questo dittatore dice: no, ma noi in realtà siamo buoni, pensa davvero che siamo così malvagi? Guarda cosa abbiamo fatto, non abbiamo aperto il fuoco su nessuno, quale altro conquistatore della storia poteva dire lo stesso, eccetera eccetera. Ogni mondo colonia che si sottomette potrà avere un governo locale e mantenere le proprie usanze. E Holden, che è il protagonista, dice: a meno che non entrino in conflitto con le vostre regole, ovviamente. E allora Holden dice: è questo il punto, le persone che controllate non hanno voce in capitolo su come lo fate. Finché si va tutti d'amore e d'accordo, le cose possono andare alla grande, ma quando si crea un dissidio vincete voi, giusto? E la replica è: deve esserci un modo per raggiungere una decisione definitiva. No, invece. Ogni volta che qualcuno comincia a usare la parola definitiva in politica, atrocità di ogni genere sono proprio dietro l'angolo. L'umanità ha raggiunto traguardi pazzeschi, abborracciando tra litigi e lamentele e lotte e negoziazioni. È disordinato e poco elegante, ma è allora che diamo il meglio di noi, perché tutti possono dire la loro, anche se cercano di zittirsi a vicenda. Ogni volta che c'è una sola voce che conta, le conseguenze sono terribili. E mi piace perché fa riferimento a questo caos generativo che è anche l'essere umano, no? Che anche quando si azzuffa, ma c'è bisogno del confronto, e poi dal confronto nascono cose belle, tipo la democrazia. Ecco, bello, fine. Bellissimo. Fine del Geno sermone. Sì, molto interessante, che peraltro anche a che fare con l'argomento che tratteremo oggi con il nostro ospite, perché parliamo di comunicazione. E la politica ha molto a che fare con la comunicazione, e l'espressione, la definitività effettivamente non è del confronto democratico. Però quello che succede anche, ed è questo l'argomento che affrontiamo, è che molto spesso noi che facciamo i giornalisti e che quindi animiamo i media, diciamo le stesse cose, troppo spesso le stesse cose, cioè c'è un canale di scorrimento delle notizie, il mainstream, che effettivamente alla fin fine ci impone sempre le stesse notizie, e questo è un grave danno. E ce ne parla in un opportunissimo libro, Unframing, come difenderci da chi può stabilire cosa è rilevante per noi. Ce ne parla Antonio Paolini. Antonio, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Allora, intanto hai un cognome importante anche in termini di comunicazione, di cultura, eccetera, fascisticamente anche. Anche un po' imbarazzante, ma non solo io, ma persone più importanti di me lo hanno riabilitato di recente. Bene, benissimo. No, ma anch'io, fra l'altro, ho avuto un parente. Infatti, siete tutti e due, siete compagni di cognome voi. Sì, è stato ministro anche questo. Sì, è un parente alla lontana, peraltro. Allora, Antonio, come difenderci da chi può stabilire cosa è rilevante per noi? No, tu dici giustamente che a un certo punto qual è il problema? Le molte opportunità perse dopo l'apparizione di internet, dove i nuovi player dell'economia digitale, invece di esplorare il valore di un'infrastruttura a due vie, hanno preferito stringere una sicura alleanza con la morente industria dei media tradizionali. Cioè, come dire, per ora internet, l'informazione attraverso internet e l'informazione attraverso i media tradizionali segue lo stesso flusso. È un po' così? Assolutamente sì. Diciamo che il libro scatta come una istantanea, una fotografia di dove si trova l'industria dei media durante la transizione digitale. Siamo solo agli inizi di questo processo, che è molto più lungo di quello che qualcuno pensava, però sicuramente in questi primi anni i media tradizionali, cioè giornali, radio e TV, hanno capito di poter recuperare appunto questo ruolo di stabilire che cosa è importante per le persone. Il problema è che lo hanno fatto subendo la velocità, l'automazione digitale, diciamo, delle piattaforme su cui poi questi temi verranno discussi. E quindi è quella a cui assistiamo tutti i giorni, è una rincorsa in cicli di vita della notizia, per esempio, che sono sempre più brevi. E anche poi, come giustamente dicevate voi, tutta la politica ha bisogno di vivere all'interno di cicli brevissimi che non permettono alla notizia di essere approfondita e ancor di più alle persone di sfuggire da questa specie di ruota del criceto in cui si ritrova. Per intenderci, un'inchiesta lunga 2 mesi, come fu quella del Watergate all'inizio degli anni 70, oggi non è economicamente sostenibile per i giornali. Ai tempi i giornali vendevano la qualità e l'importanza e la missione pubblica di quella funzione, perché era davvero il fattore concorrenziale. Uno comprava un giornale in grado di fare quella inchiesta del Washington Post e non un altro. Oggi invece no, oggi al giornale chiediamo di rincorrere tutto sommato questo ciclo, perché ci deve imprigionare dentro. Siamo anche paradossalmente felici di essere imprigionati, perché non ci rendiamo conto del danno di questo tipo di degenerazione dell'ecosistema. Allora io devo dire che in Rai ancora ci sono degli esempi, degli giornalisti d'inchiesta che lavorano per mesi. Io conosco personalmente Sigfrido Ranucci, ci ho lavorato insieme, Iacona, poi c'è Purgatori che lavora per la Sette, insomma ce ne sono ancora, però pochi, perché il giornalismo d'inchiesta costa molto. La cosa però, l'opportunità che noi stiamo perdendo, faccio un atto d'accusa per quanto riguarda noi giornalisti della Rai, radiofonici, televisivi, eccetera, è che ignoriamo settori enormi di notizie e di informazione che sono sul web e rincorriamo soltanto quello che scrivono alcuni siti, che sono quelli che poi secondo me si sono un po' invertiti i ruoli, sono quelli che dettano la scaletta. Adesso non cito, ma insomma quelli dei grandi giornali. Quindi questa è un'opportunità persa, insomma, è un'opportunità che stiamo. Ma ci sarà tempo per adeguarci, secondo te? Ci sarà occasione, tempo sicuramente, insomma. Il tempo c'è. Allora, io starei attento a parlare di inversione, perché appunto giustamente dicevi, sono i siti comunque dei giornali, quindi sono sempre ambienti redazionali, professionali a sviluppare i temi dell'agenda. Comunque il tempo c'è. Il problema preciso una cosa, Antonio, cioè intendevo dire che rispetto, cioè che sono comunque i giornali che dettano la linea alla TV e alla radio, che avrebbero delle potenzialità maggiori. Questa è la questo indubbiamente sì, però i tempi, dicevamo, ci sono, ma sono i tempi dei fenomeni umani. Mentre la tecnologia è stata incredibilmente rapida a cambiare un bel po' di cose, perché la tecnologia non è mai neutra, non bisogna neanche essere tecnodeterministi, però quello che è successo negli ultimi 20 anni è stata una rivoluzione digitale sotto il profilo tecnologico. Quello che non è successo è stata la comprensione reale delle potenzialità, anche in un settore come quello del giornalismo, di questo cambiamento. Quindi i tempi saranno anche quelli generazionali. Qualche tempo fa avrei detto che i giornalisti giovani che entrano in Rai stanno dando le prime grandi prove di utilizzo reale della rete, e questo si vede, però vedo che anche le generazioni non così giovani stanno sempre più prendendo confidenza. Quindi non farei un discorso di aging, perché sarebbe anche antipatico. La verità è che ci sono professionisti che hanno la volontà di cambiare ed altri magari sono un po' più restii. È più comodo stare fermi. Allora Vera, te vai. Non volevo interrompere questo idillio che si era creato. È un tema per me caldissimo. Vabbè, dai. No, io ho una grande adorazione per Antonio perché è sempre molto pacato nelle cose che dice, ma mena duro. Quindi sì. Tutti i suoi, anche il suo libro precedente era molto pacato nei toni, ma in realtà assestava delle belle sgnacchere a tutto il sistema. Allora, Antonio, c'è l'ultima parte del tuo libro, che io ho letto, come tu ben sai, che si concentra su cosa possiamo fare noi come pubblico. Puoi dare qualche consiglio così generativo ai nostri ascoltatori? Allora, l'ultima parte è quella che cerca, tra virgolette, di vendere il libro, no? Di non farlo passare per l'ennesimo saggio sull'industria dei media, ma ci sono anche degli strumenti pratici per le persone, anche perché le persone devono correre ai ripari, non possono aspettare che un'intera industria adotti un modello, per esempio, di remunerazione, un modello economico diverso, no? Quindi nel frattempo, mentre i signori, diciamo i padroni del vapore, si organizzano, ci sono nell'ultima parte una, diciamo, decina di suggerimenti. Io ne do uno solo, che è quello forse che riunisce tutti quanti, e cioè cominciamo a invertire il flusso delle notizie. Io con la parola unframing voglio proprio indicare la capacità di scorniciare certo. I fatti, le notizie, in non subire il flusso dei mezzi di informazione. Più in generale, non subire il flusso dei mezzi di comunicazione di massa, ma esercitare un ruolo molto più attivo nella scelta. Siamo in gravissimo ritardo, Antonio. Però insomma, certo. Ci è piaciuto molto questa chiacchierata. Vai, però l'ultima cosa la devo sempre chiedere, Antonio: che parola ci doni? Ma la parola è scelta, perché tutte le volte che fermi il flusso per un attimo, alzi gli occhi al cielo e dici, ma questo è veramente quello che io vorrei leggere, quello che il programma che sto guardando in TV veramente l'ho scelto io, tutte le volte che riprendiamo un po' in mano il nostro tempo, la nostra capacità di scegliere, abbiamo fatto il primo grande passo avanti. Grazie. Nel libro ce ne sono altri. Grazie Antonio Pavolini. Grazie Antonio. Unframing, come difenderci da chi può stabilire cosa è rilevante per noi. Scritto Unframing. Sentiamo Alex.